Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Gentile cliente, le comunichiamo che la banca ha deciso di modificare alcune condizioni applicate al suo conto corrente in merito all'applicazione della commissione di massimo scoperto. Questo è parte del contenuto di una comunicazione che molti di voi avranno ricevuto o riceveranno, stanno ricevendo da parte delle banche. La commissione di massimo scoperto, infatti, ai giorni contati, il decreto anticrisi a gennaio ha stabilito la nullità della commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure se il cliente non ha un'apertura di credito. Entro la fine del mese i conti correnti esistenti saranno adeguati alle nuove norme, ma questo non significa che le banche stiano rinunciando ad una fonte di ricavo legata allo scoperto, e ecco che la soppressione della commissione di massimo scoperto sta andando di pari passo all'introduzione di altre commissioni o comunque ad una riorganizzazione della struttura commissionale che la banca applica appunto ai fidi, agli scoperti di conto. Oggi cercheremo di capire intanto e di interpretare qual è la natura appunto di questa comunicazione che ci sta arrivando dalla banca, come si stanno adeguando le banche per l'appunto, quindi cercheremo di fare un po' il punto della situazione insieme intanto ad Anna Vizzeri dell'ufficio studi giuridici economici di Altro Consumo. Vizzeri, buongiorno, bentornata. Buongiorno, Salva Danaio, grazie, buongiorno. Nostro punto di riferimento per queste tematiche, e per quello che riguarda invece il mondo bancario ha accettato il nostro invito, contrariamente a molte banche che abbiamo interpellato per questa puntata, Ivan Niglio, responsabile area prodotti del gruppo Banca Monte dei Paschi. Niglio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie anche a lei di essere con noi. Ovviamente microfoni aperti ai nostri ascoltatori, che possono chiamarci all'800 24 0024 o scriverci al 349 238 6666. La borsa prima di tutto, borsa che oggi è molto euforica direi, era partita molto bene, per un attimo in mattinata ha affievolito i guadagni, adesso invece torna ad essere piuttosto brillante la seduta. Abbiamo un rialzo di 2 punti a Parigi, del 2,40% a Francoforte, dell'1,86% a Londra, e Milano guadagna il 2% tondo in questo momento sul FTSE MIB. Giornata positiva, lo dicevamo prima anche nel corso del giornale radio, per tutta una serie di fattori, perché in particolar modo così è un po' come se il sistema americano stesse riscoprendo un po' di stato di salute buono per le banche americane, visto che hanno in gran parte deciso di restituire quei fondi pubblici che l'amministrazione aveva conferito loro per ricapitalizzare temporaneamente proprio alla luce della crisi finanziaria, i cosiddetti fondi TARP. 10 banche restituiranno questo denaro e pertanto il mercato oggi brinda anche a questo. Ma Piazza Affari ci sono anche altri fattori. Abbiamo intanto Prismian che sta volando di quasi il 7% in questo momento a 10,5 euro. Abbiamo soprattutto Fiat oggi in evidenza, più 6 punti per il titolo del Lingotto, 7,86 euro in questo momento, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera alla vendita di Chrysler al gruppo torinese. L'alta corte ha respinto la richiesta che era stata avanzata dai fondi pensione dell'Indiana e da altri oppositori all'operazione appunto di ritardare la vendita. In virtù di questo ricorso, proprio l'altro giorno la Corte Suprema americana aveva bloccato la vendita, ma nel giro di una nottata ha deciso di fare diversamente. La vendita si può fare. Bene anche Saipem, più 4,56%, oggi è un po' tutto il comparto delle materie prime che sta andando bene in Europa. Il petrolio sta ritornando ad ancorarsi saldamente ai $70, ieri ha sfiorato i 71 a New York, e dunque un po' di preoccupazione legata all'andamento dei corsi del petrolio, che è inevitabilmente legata anche alla discesa del dollaro che è ripresa. Adesso le quotazioni sull'euro sono a 1,40 e 81. Fra gli altri titoli in evidenza, Monte dei Paschi più 4,41, STM più 3,52, più 3 punti per Fondiaria, più 3 per Tenaris, più 3 per il Banco Popolare, per Buzzi Unicem. Il segno meno oggi lo troviamo invece sull'automatica, ma il gruppo era andato molto bene ieri e oggi perde 1,5 punti. Parmalat debole, meno 0,17, sulla parità A2A più 0,6% per Finmeccanica. Oggi abbiamo un importante appuntamento in serata con il Beige Book della Federal Reserve, rapporto periodico della Banca Centrale Americana, che ci farà il punto sullo stato stato di salute dell'economia a stelle e strisce, dopo che abbiamo sentito anche i dati sul PIL italiano che ci confermano invece un quadro in chiaroscuro ancora per il nostro paese. Direi che però possiamo lasciare subito la borsa per andare al tema di questa mattina. Allora, come molti di voi ci avevano chiesto, oggi affrontiamo tutte le novità relative alla cosiddetta commissione di massimo scoperto. Commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione per istruttoria urgente, onere per passaggio a debito nel trimestre. Sono soltanto alcuni dei travestimenti introdotti dalle banche nel tentativo di mascherare un'altra realtà. La commissione di massimo scoperto è tornata. Dalla finestra, in silenzio, dopo essere uscita dalla porta principale. Ma in che cosa consiste esattamente e quali spese comporta questa pratica? La banca concede un fido bancario, ad esempio per 100.000 euro, sotto forma di scoperto di conto corrente. In altre parole, la banca permette di andare in rosso sul conto per un ammontare pari al fido. Sullo scoperto, la banca pratica un tasso di interesse a debito che va corrisposto ogni 6 mesi. Ma non è tutto. La banca richiede in aggiunta una commissione, appunto quella di massimo scoperto, motivata dal fatto che l'istituto di credito si impegna a mettere a disposizione l'importo del fido concesso, utilizzabile senza preavviso. Dopo numerose richieste da parte della Banca d'Italia, dell'Antitrust e delle associazioni dei consumatori, lo scorso gennaio il decreto anticrisi ha stabilito la nullità della commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi, oppure se il cliente non ha un'apertura di credito. A meno che, e qui sta il punto che garantisce un certo margine di manovra agli istituti di credito, simili clausole non siano fissate per iscritto e prevedano un tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire a Salvadanaio in diretta, di rivolgere le vostre domande ai nostri interlocutori, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Volevo leggervi anche qualche titolo di alcuni giornali apparsi in questi giorni che si sono dedicati lungamente all'argomento. Massimo scoperto, addio, ma le banche lo reinventano. Addio al massimo scoperto, ma il rosso costa fino a 100 euro, il fido si pagherà anche senza utilizzo. Qualche banca contesta questa impostazione perché sostiene appunto che c'è una male interpretazione rispetto alle nuove strutture commissionali che saranno applicate d'ora in avanti in virtù dell'eliminazione del massimo scoperto. Oggi cercheremo di ricapitolare la questione e di capire anche come appunto le banche si stanno comportando. Comincerei con la nostra Anna Vizzari, Altro Consumo. E allora, tanto per capirci, cosa succede a partire dalla fine di giugno, Vizzari, per tutti i clienti bancari, sia che abbiano un conto affidato o un conto senza fido, ma che rischiano di finire in rosso, in scoperto, perché insomma questa è una situazione nella quale ci si può anche facilmente trovare. Certo, allora diciamo subito che noi come Alto Consumo abbiamo vagliato i foglietti informativi dei conti correnti a disposizione del cliente in agenzia o sui siti online e verificato quali erano le condizioni che le banche già applicavano ai conti correnti aperti dal 29 gennaio in avanti, quando la legge è entrata in vigore, perché ricordiamo che per i nuovi conti correnti le disposizioni della legge sono partite da quel giorno in avanti, poi sono disposizioni che entreranno in vigore per i vecchi contratti effettivamente dal 28 giugno in poi, e quindi poi effettivamente adesso molti consumatori stanno ricevendo a casa delle lettere con la modifica delle condizioni. Dalla nostra disamina è risultato che in realtà sono state introdotte le nuove voci che a nostro avviso però non tengono perfettamente conto, anzi sono molto spesso contrarie al dispositivo della legge che parla di proporzionalità della spesa richiesta alla banca rispetto all'importo del rosso e rispetto alla durata. In molti casi si tratta infatti di spese diciamo così forfettarie legate a particolari scaglioni, per cui la proporzionalità viene meno della spesa. Quindi insomma voi contestate le nuove impostazioni perché è come se la commissione di massimo scoperto, come noi spesso diciamo, fosse uscita dalla porta e rientrata dalla finestra sotto un altro vestito? In molti casi sì, sembra proprio così. Insomma, come dire, in ogni caso la struttura forfettaria non è... Cioè a nostro avviso in molti casi, facendo poi calcoli su proprio dei casi pratici, concreti, sicuramente si viene a pagare di più di quanto si sarebbe pagato prima con la commissione di massimo scoperto. Mi sono soffermata in particolar modo proprio sul termine che lei ha usato, forfettario, perché in realtà invece poi adesso magari Ivan Niglio di Monte dei Paschi ce lo spiegherà sicuramente meglio, per la banca è una razionalizzazione della struttura commissionale che in qualche maniera ha l'obiettivo di essere proprio particolarmente trasparente. Ivan Niglio, allora lo ricordo, responsabile area prodotti del gruppo banca Monte dei Paschi, le chiedo innanzitutto come state gestendo la comunicazione rispetto a questa novità nei confronti della vostra clientela. Mi risulta, se non ho capito male il numero che lei mi ha raccontato prima a microfoni spenti, che abbiate fatto partire qualcosa come 3 milioni e mezzo di lettere di comunicazione di questa novità? Esatto, abbiamo mandato 3 milioni e mezzo di lettere ai nostri clienti che sono affidati e che antecedentemente pagavano la CMS, e il criterio, la strategia che noi abbiamo adottato, devo dire in contrasto con quanto viene forse rappresentato in riferimento all'intero sistema bancario, è quello di una razionalizzazione delle commissioni, ma non una sostituzione o un loro, diciamo così, ridenominazione. Faccio un esempio. Sì. Il Monte dei Paschi, contrariamente a molte banche, aveva già sia la CMS sia il corrispettivo sull'accordato, cioè quella commissione introdotta dalla nuova legge 2/2009, già dal 1 gennaio di quest'anno. E insieme a queste due commissioni aveva un'altra serie di commissioni similmente a quanto già facevano alle altre banche del sistema italiano, che a vario titolo intervenivano sugli affidamenti ai clienti, per un totale di circa 5 commissioni. Da una situazione del genere noi siamo invece approdati con la scelta che abbiamo fatto nei confronti dei nostri clienti a semplicemente due commissioni, nel senso della massima trasparenza e della certezza del costo per i clienti, che sono un corrispettivo sull'accordato, che come dice la nuova norma è una commissione che si paga in proporzione all'importo e al tempo della messa a disposizione dei fondi. Per accordato che cosa si intende, Niglio? Per esempio, se io apro un conto corrente e stabilisco di aver bisogno di un fido costante mensile di 1000 euro, questo è l'accordato? Questo è appunto il fido che noi abbiamo accordato e la commissione si paga proporzionalmente a questi 1000 euro e per il tempo che è messo a disposizione per il cliente. Faccio un esempio: sì, se lo apre oggi e lo chiude il 31 di agosto, la commissione sarà calcolata proporzionalmente su questi 2 mesi e mezzo rispetto rispetto al tasso annuo, cosa che invece per esempio nella CMS prima non accadeva, perché la CMS veniva nella stragrande maggioranza dei casi percepita sulla punta massima, ecco, dell'esposizione. E questo infatti lo voglio chiarire subito: il corrispettivo sull'accordato è pagato a prescindere dal fatto che questo venga effettivamente utilizzato, poi nel momento in cui si viene a pescare da questa disponibilità scatta evidentemente un'altra commissione, però, Niglio. Nel momento in cui si utilizza scattano esclusivamente il tasso sul finanziamento. Punto. Benissimo. Allora, partendo intanto da questa dalla tipologia, diciamo, della struttura commissionale che è stata pensata dal gruppo Monte dei Paschi, invece per quello che riguarda il resto del mondo bancario, Vizzari, che cosa avete scoperto di particolarmente eclatante? Ovviamente ricordo che noi ci atteniamo ai foglietti informativi, alle simulazioni che Altro Consumo ha fatto, e ribadisco appunto che le banche interpellate, alle quali avevamo chiesto e avevamo dato la disponibilità di spiegare le loro proprie, in casa propria, strutture commissionali, non hanno accettato l'invito. Quindi, Vizzari, voi che cosa avete scoperto? La questione Monte Paschi di Siena, che sicuramente è stata introdotta questa percentuale sull'accordato del 3,75%, ma sui conti non affidati, quindi quando lo scoperto non è stato concordato all'inizio, quando si va in rosso è stata introdotta una commissione per istruttori a urgente che è di massimo di 100 euro a trimestre ed è pari a 50 euro per scoperti da 100 a 3.000 euro e a 100 euro per scoperti sopra i 3.000 euro. Qui viene meno, come dicevo prima, la proporzionalità, cioè nel senso che io vado in rosso di 200 o di 3.000 euro, comunque avrò una spesa richiesta alla banca di 50 euro. Facciamo quindi, rispondere subito a Niglio, allora, magari, perché io con lui avevo, certo, mi ero fermata al corrispettivo sull'accordato, che è la novità introdotta dalla legge. Per quello che riguarda invece lo scoperto senza fido, Niglio, sì, la commissione, ecco, per istruttoria urgente, loro hanno fatto un calcolo, una simulazione, signore di altro consumo, ce la può spiegare meglio? Ecco, guardi, io non conosco in dettaglio le simulazioni fatte dalla dottoressa, comunque la ringrazio per la domanda, perché mi consente di specificare molto bene questo aspetto. La, per i clienti non affidati, ovviamente, noi abbiamo fatto una scelta anche in questo caso di razionalizzazione e di tutela. Già prima, oltre alla commissione di massimo scoperto, sui clienti insistevano una serie di altre commissioni che venivano fatte pagare in caso di scoperto senza affidamento e che invece dal 25 di maggio ultimo scorso non vengono più percepite. E al posto di tutte queste commissioni, ripeto che similmente molte altre, se non tutto il sistema bancario percepiva, è stata istituzionalizzata una sola commissione che funziona esattamente come la dottoressa funzionava, descriveva. Però abbiamo introdotto delle forme di tutela molto importanti. Che è tipo la franchigia. Una franchigia che è molto importante, che molte altre banche invece non hanno fatto. Per tutti quei clienti che non sono affidati, che vanno in rosso entro un limite di 100 euro, non si applica nessuna commissione. Perché avete scelto questa soglia, Niglio? 100 euro, voglio dire, è un termine abbastanza facile da sconfinare. Oppure avete rilevato che in realtà oltre questa soglia non si va, perché la definite una tutela? È una tutela molto importante perché nelle analisi che abbiamo fatto sui nostri clienti, più del 50% dei casi di sconfino avvenivano entro questo importo. Quindi di fatto abbiamo salvaguardato e isolato moltissimi clienti dal pagare una commissione nel momento in cui vanno in rosso. Ma non ci siamo fermati qui. Gliele faccio dire dopo tutte le altre, prego, come dire, opzioni che avete aperto per la clientela, perché volevo commentare adesso, non per infierire su chi non c'è naturalmente, perché Anna Vizzeri diceva che aveva trovato abbastanza divertente l'introduzione della commissione per istruttoria urgente di Banca Monte dei Paschi. Io, Anna, ho trovato ancora più divertente, per la verità, questa commissione che hanno introdotto i signori di BNL Bempe Paribas, perché al cliente non affidato che va in rosso paga il tasso di interesse più una commissione fissa di 12,5 euro per ogni episodio di sconfinamento ai 20 euro, ai 21 questo, euro, ecco. Sì, esatto. Cioè, anche in questo caso infatti ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza singolare, perché comunque è una spesa fissa indipendentemente dall'importo del rosso, purché si vada in rosso, e la franchigia è di appena 20 euro, quindi è abbastanza, esatto, ridicola. Quindi, direi, infatti, adesso, siccome li avevamo anche invitati ad intervenire, magari ci potevano anche spiegare come mai avevano scelto proprio questa soglia singolare, 21 euro, perché? Perché 21, perché non 20, non 25, non una cifra tonda? Non lo so, vabbè, evidentemente qualche ragione ci sarà. Vi faccio sentire, intanto, siccome c'è un cliente Monte dei Paschi, dottor Niglio, io glielo faccio sentire, così magari le dà anche l'opportunità di continuare a spiegare, come dire, la ristrutturazione dei costi commissionali che avete adottato in virtù dell'abolizione della commissione di massimo scoperto. Sentiamo Renato da Genova. Renato. Allora, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono appunto cliente Monte dei Paschi. Sì. E dunque, ho degli fidi, sì, su cui pago dei tassi, e avevo la l'esenzione della commissione di massimo scoperto. Sì. Adesso mi è arrivata questa lettera in cui mi si dice che verrò a pagare delle spese che prima forse non pagavo. Ecco, volevo capire cosa succede, ecco. Infatti, Renato, lo stiamo spiegando appunto fin dall'inizio, però io mi pareva di aver capito che lei avesse indicato ai nostri centralinisti, alle nostre centralinistre, proprio una percentuale di un interesse extra fido che aveva individuato nella sua lettera. Ecco, qui è una lettera che mi è arrivata 2 giorni fa e non ho ancora capito bene di cosa si tratta. Per quello che... No, perché se poteva essere più preciso, magari avevamo una risposta più precisa anche dal nostro interlocutore. Sapere, non avevo commissioni di massimo scoperto, se adesso l'avrò. Ecco. Ci mancherebbe altro, visto che è stata abolita per legge, Renato, per quale motivo deve essere reintrodotta sotto proprio questo nome? E allora, magari le rispondiamo adesso nella seconda parte di Salva Danaio, visto che tra poco devo dare la linea ai colleghi della redazione per le anticipazioni del GR Extra Large. Abbiamo pronto, magari riusciamo anche a sentire Alessandro da Milano, così almeno mettiamo insieme due domande e rispondiamo ad entrambi nella seconda parte della trasmissione. Alessandro? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono, anche a me è arrivata questa lettera e sono veramente allibito, nel senso che parlano di agevolazione alle imprese, parlano di aiuti e menate varie. Io praticamente ad oggi per il mio rinnovo di 25.000 euro pagavo intorno ai 35-40 euro all'anno come istruttoria, come pratica, e mo me ne trovo a pagare 250. Ho chiesto spiegazione al direttore e mi fa purtroppo è così, quindi uso tutto il fido o non lo uso, mi trovo a pagare 250 euro. Posso sapere con quale banca ha a che fare, Alessandro? Sì, il Credito Artigiano. Quindi benissimo, la ringrazio, faccio riflettere un po' i miei ospiti. Tra l'altro noi ci stiamo attenendo questa mattina alla situazione della clientela retail, quindi delle famiglie, piccoli correntisti. Per la situazione imprenditoriale la questione è molto più complicata e magari spenderemo due parole anche su questo. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi stiamo esplorando ancora una volta il mondo bancario alla luce del fatto che è stata abolita la commissione di massimo scoperto, ma come abbiamo spiegato all'inizio le banche stanno riorganizzando le strutture commissionali con non troppa percezione di chiarezza da parte della clientela. Abbiamo raccontato rapidamente della simulazione fatta da Altro Consumo per capire se le nuove strutture commissionali pesano di più o meno rispetto alla vecchia commissione di massimo scoperto. Abbiamo individuato appunto in certi casi una non totale azione di chiarezza da parte del mondo bancario, almeno questo è quello che passa anche ad, dai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando. Allora, dottor Niglio di Monte dei Paschi, Renato da Genova, ci ha detto che ha ricevuto la lettera dove si parla del cosiddetto corrispettivo sull'accordato appunto in luogo della commissione di massimo scoperto, ma appunto lui, come dire, forse noi non abbiamo una grande capacità di leggere anche le comunicazioni bancarie, mi ci metto io, per me è un po' complicato farlo. Però lui non ha avuto una grande percezione di chiarezza rispetto a questa novità. Gli chiedono anche, gli avete chiesto anche degli interessi extra fido, se non ho capito male dalla domanda. Voleva replicare la questione posta dall'ascoltatore di Genova? Certo, innanzitutto saluto il nostro cliente. Effettivamente è vero, non è molto facile, non è stato facile rappresentare in una lettera un cambio epocale di questo tipo. Abbiamo ovviamente fatto tutti gli sforzi, però mi sembra di capire che il cliente sia in una situazione particolare, cioè in cui prima non pagava la CMS perché esente. Ora, su questo tema specifico mi permette di richiamare quanto dicevo prima. Il confronto fra prima e dopo va fatto sia alla luce dei costi complessivi, non solo CMS e corrispettivo sull'accordato, in virtù di quanto dicevo prima dell'esistenza cioè di n altre commissioni, ma proprio di una nuova filosofia in base al quale il cliente non paga per l'utilizzo dei fondi ma per la rimessa a disposizione dei fidi. Tanto è vero che noi abbiamo sia nella lettera fatto un invito esplicito ai clienti a venire in filiale, sia negli strumenti che abbiamo dato alla nostra rete, abbiamo evidenziato tutta una serie di tecniche e di leve per poter mettere in condizione il cliente di predeterminare il costo e di ridurlo in base alle specifiche esigenze che il cliente ha. E tutto quanto noi abbiamo fatto, anche qui forse un elemento molto distintivo del Monte Paschi, è assolutamente e puntualmente riportato nei fogli della trasparenza pubblicati su internet. Anna Vizzari, condividete questa impostazione che probabilmente potrebbe anche essere, noi lo ipotizziamo visto che non ne abbiamo qua gli interlocutori, questa impostazione che in qualche maniera vuole andare a rappresentare un deterrente per le famiglie all'utilizzo dello scoperto di conto, in sostanza dietro alla questione che ci ha spiegato Nilo figlio. C'è questa questione: se volete lo scoperto di conto perché vi serve di utilizzarlo, è chiaro che appunto questo va pagato, ma se un fido lo si vuole giusto perché si vuole avere un po' un paracadute, no? Certo. Ma se poi non viene utilizzato, allora sappi che comunque tu hai l'obbligo di pagare un forfè solamente per il fatto che noi te lo mettiamo a disposizione, ma se non lo usi cerca di fare in modo che non lo si utilizzi. Esatto. Allora, entriamo qui nell'ambito del credito responsabile, per cui indubbiamente chi ha accesso a una linea di fido deve sapere quali sono i costi, quali sono i rischi, cosa succede se ci si indebita eccessivamente. Però al di là di tutto è pur vero che la situazione di chi accorda un fido al momento dell'apertura del conto è sicuramente diversa rispetto alla situazione di chi va in rosso senza aver accordato quel fido. Cioè trovo più corretto che paghi una spesa chi ha il fido a disposizione, perché significa che la banca tiene aperta una linea di credito, piuttosto che richiedere delle spese a delle persone che invece vanno magari in rosso per 300 euro perché c'è stata una spesa improvvisa e dovevano far fronte. Oppure perché magari per un problema aziendale lo stipendio non è stato accreditato. Esatto. Nei tempi, ecco. Sì, perché si tratta poi comunque di situazioni passeggere che vengono poi ripianate con l'arrivo dell'accredito della pensione, dello stipendio. Quindi si tratta di situazioni molto diverse una dall'altra, per questo che noi ci siamo soprattutto soffermati sugli scoperti, quindi sulle spese che si pagano quando non si ha il fido. Ho capito perfettamente. Il caso invece di Alessandro da Milano, che se non ho capito male era un piccolo imprenditore a cui ha chiesto un rinnovo di un fido da 25.000 euro per il quale prima pagava in una determinata modalità, adesso invece la banca gli chiede addirittura per il rinnovo tipo qualcosa tipo 250 euro annuali. Questa fattispecie, Vizzeri, come può essere descritta? Io ho trovato anche banche che arrivano a chiedere 585 euro appunto per il fido. Ecco, questa fattispecie a mio avviso non rientra nello spirito della legge, che parla di proporzionalità e di durata del fido stesso, quindi se si tratta di spese forfettarie sicuramente non sono imputate in maniera corretta. Fa un po' sorridere la risposta del direttore di banca che alza la braccia, che le belle braccia, così. E dice è così, e invece io credo che questa persona voglio dire, se chiede un fido di questa portata è evidentemente anche un imprenditore che muove un po' di numeri. In una situazione anche particolare, no? Quindi anche il periodo di crisi finanziaria ha portato molte imprese anche, non so se poi riescono ad ottenere la linea di credito alla banca. Infatti, no, tra l'altro quello che ovviamente è il dubbio che viene è che alla luce del fatto che c'è una crisi finanziaria enorme, le banche fanno fatica a fare raccolta, sappiamo bene che hanno chiuso i rubinetti del credito parecchio negli ultimi tempi, ne abbiamo parlato anche molto spesso, non vorrei che proprio nella questione della ristrutturazione delle commissioni alla luce dell'abolizione del massimo scoperto in qualche maniera si tenti di così un po' mettere e sistemare anche i bilanci attraverso queste novità. Non lo so, Niglio, a noi il dubbio viene, le banche si difendono, però poi è sempre un po' colpa nostra che impostiamo male i problemi. Però alla luce di quello che dicono gli ascoltatori, lei per esempio di fronte ad un imprenditore che denuncia magari al vostro sportello una situazione di questo tipo, cosa risponderebbe? Guardi, volevo innanzitutto fare relativamente a quello che diceva la dottoressa Vizzeri, sì, evidenziare alcune specificità del Monte dei Paschi. Contrariamente a quanto è stato riportato sulla concorrenza, per esempio, sull'istruttore urgente, noi non prendiamo commissioni legate ad episodi. La nostra commissione è omnicomprensiva, indipendentemente dal numero delle volte che il cliente va in rosso nel trimestre. E come dicevo prima, l'introduzione di quei 100 euro di franchigia elimina molto dei casi che la dottoressa Vizzeri proprio richiamava, cioè dovuto al ritardo nell'addebito dello stipendio, eccetera, eccetera. Così come una cosa importante noi abbiamo fatto su quei clienti, il credito responsabile, no? Richiamava la dottoressa molto opportunamente. Su quei clienti che prima del 25 di maggio di fatto erano affidati ma non utilizzavano l'affidamento, quindi di fatto non pagavano la CMS, noi non abbiamo applicato alcuna commissione e abbiamo invitato la nostra rete, così come il cliente stesso, ad incontrarsi per determinare se è effettivamente necessario quell'affidamento. Ecco, quindi rispetto a questa iniziativa, che risposte? Esatto, quindi in sostanza la questione del deterrente un pochino si è posta. Che risposte avete avuto delle famiglie? Hanno riordinato anche la situazione con la banca anche da questo punto di vista, quindi magari riducendo il fido chiesto e quello che era disponibile, in modo tale che in prospettiva ci si potessero pagare anche in casi di necessità e di utilizzo minori oneri? Niglio, come è andata questo monitoraggio? Dicevo, abbiamo inviato circa 3 milioni e mezzo di lettere, quindi una comunicazione che ha pochi precedenti, no? nelle storie delle banche italiane. Fino ad oggi, molti sono i clienti che si sono rivolti alle nostre filiali per comprendere ovviamente in profondità, come è corretto, la filosofia e il funzionamento delle nuove commissioni, e le nostre reti stanno rispondendo al meglio, devo dire, nel senso dell'assistenza per poter tarare queste soluzioni su ogni singolo cliente, che poi è la forza del Monte dei Paschi. Allora, non sono sicura di aver ricevuto la risposta che volevo, nel senso, mi chiedevo appunto se le famiglie avessero anche ben compreso il fatto che comunque era il caso magari in qualche circostanza di ridurre il fido, perché gli avete spiegato molto bene che, guardate, anche se non lo utilizzi, adesso hai una commissione che comunque ti impone di... Le rispondo più precisamente. Ecco. In qualche caso il fido, d'accordo con il cliente, è stato ridotto. Ecco. Nei casi in cui i clienti avevano un fido ma non l'avevano mai utilizzato, in qualche caso il cliente ha deciso di chiuderlo non avendone a disposizione, non avendone necessità. In altri casi invece il fido è stato aumentato in relazione appunto al fabbisogno dei clienti. Quindi, soprattutto ovviamente per le aziende e meno per le famiglie. Insomma, no, questo è proprio anche per impostare un discorso di dialogo, perché noi molto spesso ci incaponiamo sul discorso della possibilità di trattare con il direttore di banca, perché un sollevamento di braccia come quello che ci ha denunciato Alessandro da Milano a noi proprio non piace. Poi le cose magari si possono fare o non si possono fare, ma dire no è, guarda, è così perché c'è l'abolizione di massimo scoperto, per cui ci siamo dovuti riorganizzare, adesso tu da zero paghi 250, è un discorso che non ci piace, soprattutto quando si chiede il denaro perché si deve lavorare, investire, mandare avanti la propria azienda. Per cui magari su questo, Alessandro, insomma, è un tema che ci sta molto a cuore, ritorni magari a bussare da questo direttore e magari cambi banca, ma molto spesso anche per chi ha delle situazioni così aperte, un po' problematiche, non è che sia molto facile, lo comprendiamo benissimo. Allora andiamo da Maria, da Frosinone. Maria, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per avermi dato questa possibilità, vi ascolto tutti i giorni. Grazie. Sono Maria. Insegnante. Sono laureata in economia e commercio, per dire che è vero. Non è proprio una che non ci capisce, insomma. Vi ascolto tutti i giorni e cerco di aggiornarmi. Ecco, e ogni giorno la confusione aumenta. Come funziona, Maria? Ecco, e mi interesso io, diciamo, un po' della gestione familiare. Brava. Io con mio marito abbiamo un conto corrente presso una nota banca nazionale, non so se posso fare il nome. Vabbè, se è nota. Inteso San Paolo. Sì. E abbiamo una disponibilità di scoperta di 2.500 euro. Uh-huh. Ora, avendo ricevuto questa lettera, sono andata proprio ieri in banca. L'impiegato è sordito, perché nonostante ho provato a leggerla più di due o tre volte, non riuscivo bene a comprendere. Esatto, come dire, se io utilizzo una parte di questo denaro, allora insomma quanto ci pago? Volta. Perché poi questo è quello che vogliamo sapere, giustamente, infatti, Maria, infatti. Sì, perché ci capita molto spesso, diciamo, che verso la fine del mese, sporiamo. La coperta è sempre quella, tanto, Maria, anzi si stanno un po' stringendo le nostre coperte, quindi... E quindi l'impiegato è sordito dicendo che, trattandosi di una modifica unilaterale, è sempre una modifica esclusivamente a favore del cliente, e mi sembra un po' strano. Ma sì, vabbè. Questa se l'ha inventata lui seduta stante. Ecco. Poi? Io adesso ho capito, diciamo, parlando con voi, che praticamente avrò una commissione trimestrale di massimo scoperto di 2 euro ogni giorno, per ogni volta che il mio saldo è attivo, praticamente. Ma questo credo che sia, no, questa credo che sia la commissione applicata da Intesa San Paolo per i conti non affidati. Lei comunque un fido ce l'ha? Ecco. Mm. Ah, in effetti lui mi aveva detto che riguardava il montare, quindi lei mi conferma che è giusto quello che mi ha detto, cioè se io vado oltre i 2.500 euro affidati. Guardi, adesso sentiamo un po' Anna Vizzari, perché io ho una ricostruzione di tutte le novità bancarie che è stata fatta dal collega del Sole 24 Ore, Matteo Prioschi. Ho poi sotto gli occhi la simulazione fatta da Altro Consumo, Anna Vizzari. Allora dunque, la commissione per scoperto conto che è stata introdotta da Intesa San Paolo. Questo 0,95%? No. Lo 0,95 è la commissione di massimo scoperto, che è stata eliminata. Sì. È stata introdotta per i conti non affidati la commissione per scoperto conto, che effettivamente paga 2 euro per ogni 1000 euro frazione e si paga per ogni giorno di scoperto. Non è però il caso però, di Maria, mi esatto, sembra. Non è applicata in caso di apertura di credito, oppure quando il saldo debitore è minore a 100 euro. Quindi in questo caso la novità che potrebbe interessare Maria qual è? È lei ha già in realtà, ecco. Cioè nel senso che non dovrebbe più pagare non paga più la commissione di massimo scoperto e non ci sono altre spese. Benissimo. Da quanto mi risulta, a meno che non siano poi introdotte più avanti altre spese, ma al momento non ci dovrebbero essere. No, tra l'altro no, mi ha fatto un po' sorridere come gliel'ha passata l'impiegato di banca, che gli ha detto, essendo una modifica unilaterale del contratto, sono quasi sei, allora guardi, sicuramente non le abbiamo fatto una modifica peggiorativa, ma sarà migliorativa per lei adesso, vabbè. Comunque gli impiegati sono lì anche per dire questo. Carla da Padova. Sì, salve. Buongiorno. Carla. Sì. Allora, niente, io parlo essenzialmente per un discorso di lavoro. Questa commissione mi sono venuta al corrente 10 giorni fa parlando con il direttore della mia banca e mi dice che ha fatto un sondaggio fra le varie altre banche e dal 1° di luglio, stranamente, tutte queste banche che lui ha interpellato istituisce al posto della commissione di massimo scoperto, che comunque c'è ancora, che poi la banca di per sé dica l'ho abolita, di fatto se superi i 30 giorni di massimo scoperto ti viene applicata. Con la scusa di togliere la commissione di massimo scoperto hanno creato questa nuova commissione. Ora io ho sentito gli importi dei vari privati che chiamano, la mia azienda ha affidamenti anche per 300.000 euro, quindi sì. Stiamo parlando di costi che vanno dai 2.000 euro, perché c'è anche un tetto massimo trimestrale. Sì, sì, sì, Carla, capite infatti. Benissimo che noi che portiamo lavoro alle banche, perché di fatto noi portiamo lavoro alle banche, altrimenti loro non potrebbero andare avanti, dall'aumento del spread, perché comunque i tassi sono bassi, ci arriva anche una nuova commissione che prima noi non avevamo, quindi per noi è un costo fisso nuovo. E anche la commissione di massimo scoperto, che noi non avevamo, perché ovviamente un'azienda sta attenta, non cerca mai di sconfinare, quindi di fatto da un costo zero abbiamo un costo trimestrale di 2.000 euro. Carla, io la ringrazio molto per la sua testimonianza, che è l'ennesima, da un piccolo imprenditore che ci arriva. Lei potrà capire che sul Sole 24 Ore o il giornale di Confindustria ne arrivano parecchie ed è un problema ben presente. Ivan Niglio, Monte dei Paschi, vorrei tornare con lei un attimo ad alzare il velo un po' anche su quello che sta succedendo nei rapporti con la piccola impresa. Io so che voi avete comunque riorganizzando la vostra struttura commissionale, come stiamo definendo questa operazione da questa mattina, avete individuato ovviamente le due grandi macro aree di intervento, le famiglie e le imprese. Sul fronte delle imprese, come vi state comportando e come suggerirebbe ad un ascoltatore che si trova in una situazione come quella denunciata dalla nostra ascoltatrice di muoversi? Ecco, per limitare gli oneri, perché qua veramente la situazione sta diventando insostenibile per qualcuno. Certo. Io rinnovo, ovviamente non so, non ho ascoltato bene, non si sentiva bene se la signora Carla da Padova non credo fosse una voce, non l'ha detto. Ripeto di nuovo, quello che noi abbiamo fatto e che credo che sia nell'ottica... Ma ci serve anche un suggerimento di buonsenso come operatore di una grande banca italiana che ovviamente aiuta il territorio a svilupparsi, a crescere, ad investire, un atto anche proprio una sua considerazione personale, dottor Niglio, magari se vuole spogliarsi per guarda, un attimo agli abiti di Monte dei Paschi. Io faccio una considerazione da chi Monte dei Paschi ha lanciato in questi mesi un programma molto importante che credo che sia conosciuto dai più, che si chiama Combatti la crisi, che è un programma che è venuto incontro alle famiglie italiane sospendendo le rate dei mutui e venendo incontro con una serie di soluzioni per lenire le difficoltà che le famiglie stanno affrontando in questo momento di crisi che non ha precedenti. E colgo l'occasione per annunciare che a breve lanceremo sul mercato una serie di soluzioni analoghe che vanno sotto il nome di combatti la crisi aziende, che vanno proprio incontro alle esigenze fondamentali delle piccole aziende, che molto spesso in questo momento non solo hanno bisogno di finanziamenti, ma hanno bisogno di strutture e di soluzioni molto particolari che non hanno precedenti per far fronte già agli impegni che avevano assunto negli ultimi anni. E quindi lanceremo tutte una serie di soluzioni, per esempio per sospendere le rate dei pagamenti di medio e lungo periodo, oppure per rifinanziare i finanziamenti a breve nel medio periodo, in maniera tale da dare quel respiro alle aziende che hanno bisogno in questo particolare momento, dove il timing su questo fronte è fondamentale. Per quanto riguarda invece l'ascoltatrice, l'introduzione della CMS, qui è di nuovo veramente, mi sento di ridire quello che dicevo per il cliente di Genova, no? Che magari era una famiglia, non era un'azienda. La nostra rete è pronta per i clienti, ma anche per i non clienti, a trovare quelle soluzioni anche sul fronte dei costi di finanziamenti che tengono conto della mutata situazione. Le faccio un esempio. Mentre prima con la CMS il finanziamento, il FIDO, quindi i fondi messi a disposizione, venivano determinati come massimo tenuto conto del reddito della famiglia piuttosto che della struttura economica e patrimoniale. Le chiedo di sintetizzare, Nilio, perché abbiamo un minuto di tempo, me ne sto accorgendo ora. Adesso con un'azienda, il FIDO da dare a un'azienda viene predeterminato, viene determinato in stretto contatto con un cliente in maniera completamente diversa, assolutamente tarata sulle necessità effettive dell'azienda. Questo è molto importante. È molto importante. Anna Vizzeri, 30 secondi di tempo ad altro consumo per concludere, esatto. Perché sì, qui in realtà abbiamo alzato comunque il velo su una questione che è molto delicata, la questione delle imprese. Poi si tratta comunque di situazioni che sono state imposte dalle banche a consumatori e imprese che si trovano sicuramente in un momento di difficoltà. Noi come associazione Altro Consumo ha fatto appunto questa verifica sul campo e i risultati sono stati inviati ad Antitrust, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, e noi speriamo che siano di spunto per una razionalizzazione veramente più effettivamente da parte del consumatore e delle imprese. E infatti, in ogni caso, a prescindere dalle iniziative di Monte dei Paschi, che lo ribadisco, stamattina ha accettato di parlare con noi, anche se vi arrivi alla lettera della vostra banca ed è un'altra diversa da questa di cui abbiamo parlato questa mattina, mentre Monte dei Paschi dice, insomma, noi abbiamo invitato tutta la nostra rete commerciale a dialogare con la nostra clientela per trovare tutte le soluzioni per ridurre gli oneri sugli scoperti e i fidi, fatelo anche voi, perché comunque c'è sempre la possibilità di modificare il rapporto a prescindere dagli adeguamenti contrattuali che vi arrivano e che vi vengono comunicati dalla banca. Grazie, a domani.